RadioTube Social Network. Eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube. La prima è stata molto molto intensa, con un sacco di ospiti, da Marco Masini a Christian De Sica, Massimo Ghini. Ci siamo collegati con il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e abbiamo iniziato in studio con Giulia Crivelli. Abbiamo parlato di moda, perché noi siamo sempre di moda. Ma in questa seconda ora, come sempre, l'attualità della rete e dalla rete. Avremo un sacco di ospiti anche in questa seconda ora. Avremo lo studio molto affollato, ma intanto il co-conduttore, sono molto contenta che sia tornato con noi. Lui è professore associato nel Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, dove insegna televisione e media digitali. L'ho detto giusto? Giusto, giusto. Luca Barra, buonasera professore. Buonasera a tutti, ciao. Allora, adesso è l'ultima volta che ti ho detto buonasera, l'ultima volta che ti ho chiamato professore, perché Luca lo conosco da un sacco di anni, però so. Sì, no, sì, possiamo darci del tu, assolutamente. Male, perché chiamarti professore, nonostante sia un bravissimo professore, insomma, mi fa strano. Luca, tra l'altro poi parliamo molto perché... è cascata a fagiolo una notizia delle ultime ore del tuo libro La sitcom genere, evoluzione e prospettive, edito da Carocci Editore, che io non ho studiato. Ho messo tutti i post-it come quando ero all'università. Anzi, adesso vi faccio una foto, vi faccio una story di Instagram di come ho ridotto questo libro. Sono pronta per l'esame, ma in realtà poi lo faccio io a te. Vabbè, esatto. Non importa. Però come sempre nel primo blocco del nostro RadioTube Social Network, visto che parliamo di attualità della rete e dalla rete, vediamo un po' quali sono i video più visti, io non dico mai virali, ma oggi meno che mai, della settimana. L'ho detto nella prima ora, non è che vogliamo cazzeggiare per non parlare di cose serie, perché ovviamente la redazione sa che in ogni momento, in qualsiasi momento ce ne fosse bisogno, la linea è aperta, siamo in diretta, quindi basta che vengano in studio o che vadano allo studio del GR, che è proprio a fianco. Però insomma bisogna anche un po' parlare delle cose che ci circondano, anche se è ovvio che il primo video che in queste ore è stato condiviso dappertutto è un video che ha a che fare proprio con il coronavirus, e il video è questo. Andiamo all'interno del bar, attraversiamo la strada qui a Vaughan, andiamo a sentire se la gente ha notizia, qualcosa al riguardo. Vedo dei signori qui seduti al bar. Buonasera, buonasera. Eccovi qua. Avete sentito? Cioè, sembra che proprio da qua, da Vaughan, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus. Sono stati portati al reparto di malattie infettive di Padova. Due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vaughan. Siete preoccupati? Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. No, non eravamo... A parte gli scherzi, è una situazione seria, perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò, e sì, un po' mi preoccupa. Vabbè, insomma, allora la povera intervistatrice di Antenna 3 che rimane lì e dice no, vabbè, è una cosa seria, però lo spirito dei veneti è unico, e per spirito non intendo alcol, è unico. Sia lo spirito umoristico, sia l'alcol, esatto, assolutamente. Esatto, beh, devo dire, in questo momento in cui... siamo tutti fatti di una percentuale di preoccupazione, cioè in tutti noi una percentuale variabile di preoccupazione. Questa mattina questo video a me è arrivato in tutti i modi, perché sembra un modo per esorcizzare, in un paese in cui la situazione è seria, perlomeno per esorcizzare la psicosi. Sì, ci aiuta anche a pensare ad altro, buttarla leggermente sul ridere, pur mentre siamo tutti in allerta. Da un lato c'è chi magari sta enfatizzando molto la cosa, c'è chi la sta un po' sottovalutando. Buttarla sul ridere è il modo più sano, è il modo più facile. Esatto, prendendo le precauzioni e senza farsi prendere dalla psicosi. Il video era stato, io l'ho visto condiviso su Twitter da Il Ragazzo Zio Muro, che è molto seguito su Twitter, e il suo tweet era il coronavirus in Veneto non spaventa noi veneti, popolo che da sempre sa come affrontare le emergenze. Vabbè, insomma, un filo di autoironia in un momento. Forse appunto abbiamo bisogno di esorcizzare la paura che c'è, è reale. E poi sai, questa mattina c'era in diretta la nostra bravissima Nicoletta Carbone, la zia Nico. Ciao zia Nico, hai fatto uno speciale meraviglioso. E gli arrivavano dei messaggi, la metà era state creando psicosi e l'altra metà era ma la state facendo troppo facile. Sì, è proprio difficile trovare il tono giusto, trovare la strada. È difficilissimo. Lo si vede anche sui giornali, in generale in questo discorso, i telegiornali, non si sa mai quanto dare le notizie possa portare a esagerare qualcosa e quanto invece si tratti ovviamente di dovere di cronaca. Brancoliamo nel buio da tutti i punti di vista, come spettatori e lettori, ma anche chi le informazioni le sta dando, raccogliendole, indagando. Allora, secondo me poi alla fine il punto è che ognuno deve lavorare con grande onestà e poi ognuno faccia i conti con la propria professionalità. Secondo me ci vorrebbe anche un filo meno di aggressività nei confronti di quelli che giudicano il lavoro degli altri, perché è difficile in questo momento. Ma parleremo un po' di aggressività in rete, perché sono arrivati già lì in regia due ragazzi che saranno nostri ospiti dopo, che hanno scritto un libro che parla anche dell'aggressività in questo periodo. Vabbè. Allora, da ragazzi abbiamo fatto tutti delle grandi scemenze. Le abbiamo fatte tutte le scemenze da ragazzi. Sì. Sì, sì. Il bullismo c'era anche prima. Sì. Sì. Adesso però i ragazzi hanno in YouTube prima, adesso hanno più che altro TikTok, hanno la possibilità di fare delle scemenze, ma di condividerle anche in rete e di suggerirle anche agli altri. Allora, questo è un video della NBC in Florida. Me ne ha parlato in realtà un collega a Radio 24, perché mi ha detto che gliene avevano parlato i suoi figli. Vabbè, sentiamo un breve estratto di questo video e poi vi spiego di cosa si tratta. Ouch, it's called the Skullbreaker Challenge here. Officials say that it's very dangerous and warn against it because it can literally break your skull. And now it's made its way here to South Florida schools. NBC 6. Allora, intanto le challenge. I ragazzi adesso si sfidano sempre, si sfidano su YouTube, si sfidano su TikTok. È proprio un format quello della sfida. Sì, si inventa qualcosa di nuovo e poi lo si ripete all'infinito. Si vede chi riesce meglio a interpretare quel modello. Quasi jazzistico, se vogliamo, certo. No? A partire da un esempio si ripropone tante volte. Spesso allora, in maniera divertente, altre volte meno. L'anno scorso c'era la sfida, a proposito di sfide idiote, c'era quella delle pots, delle capsule di detersivo, che mordevano le capsule di detersivo, potenzialmente molto pericoloso. Adesso c'è una sfida davvero molto pericolosa. Io, per sapere se non era una bufala in rete, ho guardato anche cosa ne diceva il nostro amico David Puente, e in effetti è vera. Poi ho trovato un sacco di telegiornali americani. E poi la portata del fenomeno, insomma, non è dato saperla. Però, senti qua, la Skullbreaker Challenge, cioè Skullbreaker, lo spaccacranio, in realtà è un atto di bullismo. Si fa in due ai danni di un amico, vabbè, che viene messo al centro. Si salta, prima saltano quelli di fianco e dicono noi saltiamo e poi tu in mezzo salti. E mentre questo in mezzo salta, gli fanno lo sgambetto e quindi casca all'indietro. È una cosa obiettivamente terribile, pericolosissima. Allora, le scemenze le abbiamo sempre fatte tutti, chi più chi meno, però adesso... Sì, diciamo che non registrarle, non farle circolare in una rapidità mostruosa aiutava a contingentare le scemenze. Ecco. Anche per questo io dico sempre ai genitori, io non ho figli, però insomma guardate un po' che cosa circola in rete, perché è ovvio che magari questa cosa, cioè non è che davvero i ragazzi la imitano, ma se ci fosse qualcuno abbastanza stupido da volerla imitare dopo averla vista, magari è meglio averla vista prima e dirgli guarda, questa è veramente pericolosa, perché c'è gente che davvero si è fatta male. Sì, tenere monitorato, ma anche senza dare troppa enfasi alla cosa. Leggevo un articolo nella stampa statunitense che diceva che più ancora che lo stesso TikTok e i suoi meccanismi di viralità, a far circolare questa challenge sono state le chat dei genitori, e quindi paradossalmente anche quello diventa uno stimolo per dei ragazzi che magari poi vogliono sfidarli questi genitori, certo, a continuare la farlo, challenge, ecco. Quindi non se ne esce, sono i circoli della viralità, dell'hype, sempre più tipici dei media digitali, ma bisogna un po' ancora capire bene come sì, fare. Bisogna ancora sapere come usare questi strumenti. In effetti io sono venuta a saperla da un collega che appunto ce l'aveva su WhatsApp. Vabbè, non se ne esce. Viabilità, e poi andiamo per un attimo in Corea. Questa volta il coronavirus non c'entra, ma andiamo in Corea tra poco. RadioTube Social Network. Eccoci ancora qui insieme con RadioTube, con il nostro co-conduttore Luca Barra. Intanto hanno già preso posto i nostri ospiti, che poi chiameremo in causa, perché anche loro hanno molto da dire. Beh, intanto arriva al 349-238-6666 il virus sono i giornalisti. Che poi voglio dire, ma se il virus sono i giornalisti, perché devi ascoltare Radio 24 che sei a tutti i giornali? Cioè, e allora è proprio masochismo questo. Sì, sì, alla fine, sai, cerchiamo dei bersagli in un modo o nell'altro su queste faccende in particolar modo, e lo facciamo da secoli. Esatto. Allora, c'è un personaggio che io lo amo sempre di più, perché è sempre oltre. Quando tu pensi di essere arrivato a un punto, lui ti ha già talmente superato che sta per doppiarti. Parliamo di Donald Trump, e secondo me non ci crede più neanche lui. Questa settimana ha dichiarato questo. And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? Allora, lui dice: abbiamo avuto tanti problemi con la Corea del Sud per il commercio. E cosa ha fatto l'Academy Awards? Hanno premiato la Corea con il miglior film dell'anno. È stato giusto. È il tempo di tornare ai classici dell'epoca d'oro di Hollywood. Possiamo tornare, per favore, a Via col Vento? Non a caso. Non a caso. Non a caso. Vagamente controversial anche quello. Poi un affondo contro Brad Pitt, che ha sostenuto l'impeachment è un saputello. Allora, vabbè, lui è veramente oltre ogni immaginazione. Però non voglio parlare di Trump. Sai perché voglio parlare di Corea del Sud? Perché Trump dice: non premiamo la Corea del Sud, ma l'onda della Corea del Sud è inarrestabile. E non sto parlando solo di quella del cinema, ma io non so se conosci questa cosa qui. Allora, io questa mattina ho guardato, come faccio sempre sabato mattina, tutte le tendenze di YouTube. In realtà lo faccio quasi tutti i giorni, perché cerco di capire cosa c'è in tendenza su YouTube. E io, ancora prima di capire cosa fosse, vedo i numeri, appena sveglia, con un occhio solo. Un giorno, pubblicato un giorno fa, stamattina erano 42 milioni di visualizzazioni, adesso sono 52 salute. Milioni. Salute! Sono i BTS. Allora, le band della Corea del Sud, il cosiddetto K-pop, beh, i mezzi di comunicazione ne parlano pochissimo, ma sono un fenomeno sì, pazzesco. Sì, ci sono delle comunità di fan che sono attivissime. Anche della mia famiglia, alcuni membri molto giovani, alcune ragazzine che sono indiavolate. Che si mobilitano all'istante nel raccontare, nel far circolare canzoni, video, in generale questo grande fenomeno pop. Un fenomeno pop che va dal cinema, adesso con questo K-pop pazzesco. Secondo te perché invece la stampa tradizionale non è ancora stata in grado di capirlo? Ma perché ci vuole probabilmente un attimo ad afferrarli questi fenomeni, anche sul versante televisivo, per esempio. Le serie coreane a poco stanno recuperando uno spazio. Sono delle soap, ma delle soap che ovviamente hanno delle caratteristiche molto peculiari, e soprattutto la capacità di circolare attraverso le frontiere che tradizionalmente attribuiamo alle serie statunitensi. Ci sono comunità di fan anche in Italia, ci sono paesi in cui queste serie hanno hanno un successo strepitoso nel Latino America, per esempio. Ma dai! Per cui sì, forse siamo un po' troppo occidentalocentrici nel guardare anche ai media, mentre altre sorgenti di immaginario stanno arrivando. Pazzesco, io adesso cercherò qualche... perché siccome sono... io trovo Corea del Sud, che la Corea del Sud adesso faccia delle fantastiche commedie romantiche, come faceva un tempo Hollywood, cercherò anche delle serie romantiche, ma... Le troverai. Le troverò, wow. Se hai qualche titolo poi sì, segnamelo, magari non in coreano perché non parlo, ma non posso non chiederti qualcosa di questa grande, grande notizia. No one told you that was gonna be this way. Your life's a joke, you broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Noi ragazzi degli anni 90, appena sentiamo I'll be there for you, non capiamo più niente. Sono i Rembrandts e la sigla di Friends. Cos'è successo, Luca? È successo che finalmente, dopo anni, decenni, ci sarà una reunion, a quanto pare, annunciata per sostenere una nuova piattaforma digitale che si chiamerà HBO Max negli Stati Uniti. Dopo aver smentito per molte volte di voler tornare sui set, ed effettivamente non ci tornano, faranno una reunion di cui non si capiscono bene i contorni, ma non è un reboot, non è una ripartenza della storia che ci deluderebbe. Beh, quello non io avrò un dubbi. Terrore perché raramente funzionano sì. bene, però tutti e quattro i protagonisti hanno postato la stessa foto. Sei protagonisti hanno postato la stessa foto ieri sera e in un momento i social network si sono riempiti di questa vecchia foto. Eh sì, perché in fondo non abbiamo mai smesso di vedere Friends, nel senso sì. nonostante siano 25 anni passati ormai dall'inizio della serie, la sua disponibilità su mille reti, canali a pagamento, gratuiti, su Netflix. Anzi, su Netflix c'era stato una sollevazione popolare: non smettete di comprare i diritti di Friends, che la continuiamo a Netflix vorrebbe continuare a comprarli, ma negli Stati Uniti per esempio hanno smesso di venderglieli, e quindi proprio per il lancio di questa nuova piattaforma. Perché ci sarà una nuova piattaforma, ormai ognuno avrà la sua piattaforma, non sapremo più cosa fare. È uno dei punti fondamentali del tuo La sitcom genere evoluzione prospettive, edito da Carocci. Sei partito, io pensavo, da I Love Lucy, invece ancora prima. Lucy e io, come si chiama in Italia, per arrivare ai giorni nostri, a Netflix, Amazon Prime Video, eccetera. Che cos'è intanto la sitcom? La sitcom è un genere cenerentola della serialità televisiva americana, un genere a cui non si sa bene perché, o forse lo sappiamo fin troppo bene, diamo meno attenzione, che consideriamo più banale, forse troppo semplice, in fondo ci fa ridere, non è una cosa seria, ma in realtà è anche un genere che negli Stati Uniti è cruciale, è fondamentale tra le serie televisive, è una storia ormai pluridecennale, un genere che riesce a circolare tantissimo, un genere che riesce a essere fortemente popolare e quindi a essere trasversale al mainstream, alla massa, un genere che ha una elevatissima ripetibilità. Lo possiamo vedere tante volte, non ci annoiamo mai, anche a distanza di anni, di decenni, possiamo continuare a vedere qualche episodio di questi racconti, forse proprio perché sono semplici e proprio perché ci fanno ridere. Le risate registrate e le risate dal vivo, anche questa cosa è sempre stata un po' vista come un'americanata. Sì, poi in Italia, vedendo soprattutto nei decenni scorsi, vedendo le doppiate, c'era sempre un po' il rischio che magari la battuta non venisse tradotta perfettamente o comunque portasse con sé qualche differenza. Poi partivano le risate registrate e ci chiedevamo: ma perché stanno ridendo? In generale non ci piace tanto questa cosa di essere obbligati a ridere. Molti si sono scagliati per questo contro la sitcom. In realtà le risate registrate ci sono perché è una delle regole del genere, il fatto che i performer comici recitino davanti a un pubblico in studio presente, di cui si registrano le reazioni, perché è fondamentale avere la reazione della risata mentre si sta facendo qualche battuta. Poi ovviamente queste risate magari vengono un po' addolcite, modificate, sistemate, ma servono a un'altra cosa fondamentale. Noi quando guardiamo la televisione spesso non siamo in grandi gruppi, magari ci troviamo anche da soli. Ridere da soli è un po' triste, un po' sfigato, mentre ridere sapendo che tantissime altre persone stanno ridendo con noi, rappresentate da queste risate in scatola, in fondo ci crea un bel senso di comunità, di familiarità. A parte i momenti di nostalgia che mi hai fatto venire quando nel capitolo in cui parli della sitcom americana in Italia mi riparli di La famiglia Bradford, Mork e Mindy, La febbre del sabato sera, che era quello con John Travolta, MASH, eccetera, vabbè, qui Vita da strega, qui veramente nostalgia a pacchi. Ci sono due cose che mi hanno divertito molto. Uno, diamo proprio una spiegazione una volta per tutte, ve lo dico una volta sola e mai più, la confusione tra serie, stagioni, episodi. Cos'è la serie e cos'è la stagione? Diciamolo. La serie è quella nel complesso, è quella che ha un titolo univoco. La stagione sono le annate all'interno della serie. Così non ci si sbaglia. Le stagioni sono dei sottoinsiemi delle serie. Quindi non si dice la seconda serie di Friends, ma la seconda stagione di Friends. Allora, poi sto cercando un'altra cosa molto divertente. Ovviamente non la trovo perché ho 28.000 post-it, però quando si parla, eccola qua, pagina 89. Io mi sento sempre... Hai studiato davvero? Mamma mia, come aiuto. All'università. Ridono gli ospiti che stanno per arrivare. Ragazzi, non credete, ma anche il vostro libro è pieno di post-it. Ecco. Allora, il 6 febbraio 1960 va in onda alle 22 un primo episodio di Lucy e io, ma è la quarta puntata della seconda stagione. Cioè, fin dalla prima volta vengono mostrati in Italia le serie televisive con... e gli episodi mischiati, gli episodi fuori contesto. Cioè, quindi noi intanto vedevamo l'episodio natalizio o del Thanksgiving ad agosto, quando capita. Poi magari vedevamo negli anni Ottanta delle serie in realtà che raccontavano il mondo americano di 10 anni prima. In Italia abbiamo sempre fatto molta confusione. Abbiamo sempre avuto tanti problemi con la sitcom, secondo me perché l'abbiamo confusa con le altre serie. Nel senso, negli Stati Uniti hanno due storie molto diverse, anche due modi di essere scritte, prodotte, completamente diversi. Alcune, le sitcom, hanno un modello televisivo con il pubblico in studio, con la recitazione quasi dal vivo. I drama ovviamente sono più vicini al linguaggio del cinema. Da noi arriva tutto assieme e li confondiamo un po'. Il primo step, quello che raccontavi di Lucy ed io, è un errore clamoroso, sferzato dai critici contemporanei. Proprio tutti sparano a pallettoni contro la Rai, che fa questi, che manda in onda queste cose insulse. Sì, come, cioè, lungimiranti, vabbè. Come si scrive. Poi sostanzialmente per una quindicina d'anni la sitcom sparisce, quindi dall'Italia, torna a metà degli anni 70, diciamo il primo grande successo è Happy Days, poi arrivano le reti commerciali e si inizia a recuperare tutto, e quindi anche a recuperare indietro, mescolando cose che arrivano prima, cose che arrivano dopo. Ci sono degli spin-off, dei sequel che arrivano prima delle loro serie originali, ci sono serie come i Jefferson che hanno un enorme successo italiano, mentre le loro serie di partenza come All in the Family, Arcibaldo, ce l'hanno molto meno. Quindi è tutta una grande storia incasinata. Ci sono serie come la Tata che diventa Ciociara ed Erebrea. Esatto. E mi viene da dire, è perché non c'erano ancora i social network, perché adesso l'attenzione su come sono tradotti, come sono mandati in onda, come sono, è altissima. Sì, vero. Però questa attenzione molto forte alla traduzione poi in realtà a volte rende anche la sitcom fin troppo alta, fin troppo fighetta per pochi. La Tata che hai nominato va ancora in onda adesso, è conosciuta da chiunque, uno dei 10 grandi successi della sitcom americana in Italia. anche per via di quella brutalizzazione che è avvenuta. Adesso non potrebbe più succedere, ma il motivo per cui ancora ci ricordiamo della Tata, forse più che negli Stati Uniti, è proprio quello. Non ci piace pensarlo, però in fondo... Facciamocene una ragione. Allora, breve pausa e poi abbiamo in studio una parte di un gruppo che io adoro, abbiamo parlato di loro tantissimo, anche se forse non lo sanno in questi anni a RadioTube, ma ve li faccio scoprire tra poco. Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. RadioTube Social Network. Piace questo argomento delle sitcom. Il nostro conduttore del RadioTube Social Network di oggi è Luca Barra, fammelo leggere bene, professore associato nel Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, dove insegna televisione e media digitali, ma anche un amico mio. Ciao Luca. Ciao. Che sennò devo chiamare professore. No, benissimo così. Allora, dibattito durante la pausa, ma perché nella Tata? Allora, ho capito che per renderla, che poi è stato appunto una delle ragioni del suo successo in Italia, per renderla più comprensibile, da ebrea era diventata ciociara, ma perché la nonna era diventata zia? Perché, diciamo, sono decisioni che sono state prese all'inizio degli anni 90 in un'Italia che era un po' meno libera dal punto di vista della rappresentazione televisiva della sessualità. Quindi in realtà il problema è che la mamma e la nonna erano troppo esplicite, troppo debordanti per essere davvero la mamma e la nonna. Quindi sono diventate zie, che è più neutro, no? Come ci insegna Walt Disney, con gli zii si fa un po' di tutto. Vabbè. Spero che i miei nipoti non stiano ascoltando queste affermazioni, perché la loro zia è molto seria. Allora, voglio parlare di un grande, grandissimo ritorno, perché era da un po' che io mi chiedevo: ma cosa stanno facendo? Ma cosa stanno facendo? Ve lo ricordate il terzo segreto di Satira? Io li introdurrei con questo video. Salve, buongiorno. Io avrei bisogno di una cinghia di distribuzione per una Peugeot 205 del 97. No, non ce l'abbiamo. Io avrei bisogno di una cinghia di distribuzione per una Peugeot 205 del 97. Una cinghia di distribuzione per una Peugeot 205 del 97. Esatto. 3 o 5 porte? 3. Mi segua. Ce l'avranno questo pezzo di ricambio? Non lo so. Il terzo segreto di Satira, un collettivo di autori e videomaker composto da Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi e da Pietro Belfiore. Ciao Pietro. Ciao, grazie. E da Davide Bonacila. Benvenuto. Sono io, Davide. Avevi proprio beccato quello che mancava. Ho fatto tutto. Era tutto giusto. Li ho letti al contrario apposta. Aspetta, scusa. Pardon. Li ho letti al contrario apposta. Non sapevo l'ordine. Ho detto no, vediamo quali sono. Credo che li abbiano messi in ordine alfabetico nella controcopertina di La paranza dei buonisti, manuale di sopravvivenza per il ventennio sovranista del terzo segreto di Satira, edito da Longanesi. Benvenuti ragazzi. Grazie. Allora, questo è una parte di un video che avete messo su YouTube, che è un po' come se fosse un book trailer, possiamo dire così, anche se non è... Insomma, è un video che racconta un po' di atmosfera all'interno della quale si colloca il vostro libro, possiamo dire così? Sì, esatto. No, noi abbiamo cercato di fare una sorta di book trailer, però, dato che appunto noi facciamo video principalmente, abbiamo cercato di fare un nostro video che... fungesse un po' da lancio del libro, ma che avesse anche una sua dignità di video, insomma, che fosse non soltanto un trailer, ma che fosse un video. Quella roba un po' paracula di fare promozione, ma in maniera elegante. Così. Diciamo, non volevo dirlo così. Dai, l'ho detto. Diciamolo, io. Hai fatto. Noi qui non abbiamo peli sulla lingua. È una radio che manda in onda la zanzara, quindi noi possiamo dire di tutto. No, ma io lo dico sempre: dico la prima volta che qualcuno mi dice che. Io dico. Allora vado da Giuseppe. Ragazzi, un sacco di visualizzazioni, sono già più di 100.000, e ho letto i commenti, almeno i primi perché sono tantissimi. In tanti scrivono: Ma dove eravate finiti? E ci chiedevamo, e quando il terzo segreto di Satira fa ancora cose in rete? In effetti la rete l'avevate un pochino abbandonata, possiamo dirlo? Vai tu. Diciamo che in realtà non abbiamo mai abbandonata, semplicemente quello che un po' abbiamo sempre fatto però è di, rispetto ad altri gruppi, essere un po' più diluiti, cioè lavorando volente o nolente, lavorando anche in altri settori, e siamo un po' costretti insomma a ridurre la presenza sul web, ma anche per cercare di fare cose più di qualità possibile. Poi i nostri 4, 5, 6 contenuti all'anno li abbiamo sempre fatti. È che chiaramente se uno è abituato a seguire uno youtuber che fa un video al giorno, sembra che noi siamo assenti. È vero, perché ormai gli youtuber fanno un video al giorno, perché come dicono loro, per monetizzare bisogna fare... Noi abbiamo risolto all'origine, non monetizziamo. Quindi risolto la radice del problema. Tutto questo peraltro in controtendenza rispetto a tutto il materiale che ci arriva dalla politica italiana, esatto, che ci è arrivato negli ultimi anni, che obiettivamente da creatori di contenuti satirici non possiamo certo lamentarci. Siete stati tra i primi, forse i primi, a fare notizia con i video satirici sulla politica. Beh, non a caso vi chiamate il terzo segreto di Satira. Quando avete cominciato? Allora, no, 2011, abbiamo appena compiuto 9 anni del nostro percorso. È nato in realtà tutto un po' come un gioco, nel senso che appunto sapevamo che YouTube in quel momento aveva cominciato poi a caricarsi a molla e a diventare veramente un contenitore di contenuti di vario tipo, che però stava lanciando nuovi collettivi come il nostro, ed è nato, diciamo che il primo video che ha fatto un po' il giro del web è stato questo video che si chiamava Il favoloso mondo di Pisapì, che raccontava, certo, diciamo così, dopo che la Moratti è nata in TV a dire che Pisapì rubava le macchine, si era creata una specie di bolla mediatica su questo argomento, e avevamo fatto un video in cui ci immaginavamo cosa sarebbe successo, ovviamente nell'idea morattiana della cosa, cosa sarebbe successo se avesse vinto a Milano il Pisapia, cosa che poi ha fatto, quindi per ritirare al banco ma serviva la tessera Arci e via dicendo, cose di questo genere. Luca, è stato anche il periodo in cui gli accademici hanno dovuto cominciare a guardare i social, YouTube, assolutamente. Devo dire, allora con un po' di entusiasmo e di ottimismo che poi col passare del tempo si è un po' diluito, però sicuramente ricordiamo bene questi momenti di grande creatività e di grande attivismo anche che passava dai social, dai video, dalle battute, da tutta una serie di fermenti che poi sono stati utilizzati in maniera, come dire, anche speculare, ecco. Poi scoperti dalla televisione, avete fatto un sacco di cose interessanti in TV. Sì, abbiamo, insomma, dopo questo video, dopo anche un altro video di svolta, virgolette di svolta, che era stato uno legato alle primarie del 2012, che era quello in cui tracciavamo l'identikit degli elettori di Bersani, Renzi, Vendola, sembra il pleistocene di preistoria veramente. Ci hanno chiamato le prime trasmissioni, poi abbiamo lavorato per vari programmi, il più continuativo è stato Piazza Pulita, abbiamo fatto 2 stagioni e poi abbiamo fatto tante altre cose, sempre abbiamo fatto un film che è uscito nel 2018 e che va su Netflix martedì. Doppia promozione elegante, che quindi ci piace si fare. Muore tutti i democristiani martedì, beh perfetto, siamo anche sulla e poi possiamo dirlo il titolo, non violiamo la par condicio, perché si muore tutti i democristiani, roba vecchia titolo che, e poi spoiler, non parla davvero di democristiani. No dai, una sorpresa straordinario. Adesso è il momento della paranza dei buonisti. Allora, manuale di sopravvivenza per il ventennio sovranista. Ci sentiamo un altro pezzettino del vostro, vabbè, non è un book trailer, ma chiamiamolo così, book trailer, che faccio più in fretta. Popolo di spacciatori che non risponde al citofono. Tunisini. Sono brave se fanno un passo indietro. Donne. C'è stata Liliana Segre e non fa altro che ricordarcelo. GF. No, Lager. Rubano il rame, ma per alcuni sono una risorsa. Rom. Risposta sbagliata. Zingari. Ma cosa sta facendo? In che senso? L'ha differenziata? Ma non ha letto l'ultimo avviso condominiale? No, non l'ho letto. È una perdita di tempo, tanto loro miscono tutto. Ma loro chi? Mi dia qua. Ma quella è benzina. Allora, questa cosa del mischiano tutto della differenziata, tutti abbiamo un vicino di casa che dice tanto poi mischiano tutto. Ce l'abbiamo tutti. Confermo. Ce l'abbiamo tutti. Ragazzi, è un momento storico difficile in cui l'arroganza, il parlare più forte degli altri, la maleducazione, noi lo diciamo in continuazione, avete cercato di fare un manuale per difendersi, per... ma neanche contrattaccare, per sì, appunto, per sopravvivere in maniera molto ovviamente satirica, arguta, come fate voi. Beh, grazie intanto. Sì, l'idea era un po' quella, era proprio creare un manuale, visto che sentivamo anche noi questa necessità di rispondere, perché mi ricollego anche alla domanda di prima, provo a fare un mischione di tutto, la difficoltà adesso di fare contenuti satirici sulla politica attuale, ma anche su questo momento, perché il sovranismo non è solo non è quello per forza politico, ma anche quello sociale, perché comunque le persone al bar che ti dicono cose che sono contenute nel nostro manuale le trovi veramente, è che è una violenza verbale a cui è difficile giocare contro, e quindi cercare di metterla in una realtà surreale come facciamo noi, perché la realtà cioè, supera, è già surreale. In questo caso abbiamo creato dei capitoli in cui spieghiamo e chiediamo ai buonisti, diciamo, di provare a mimetizzarsi all'interno della compagine sovranista, nel tentativo, ovviamente senza diventare uno di loro, nel tentativo di capire come ragionano in tutti i campi, dall'amore all'amicizia, al lavoro, agli hobby, e poi sul finale cercare come un cavallo di Troia di entrare all'interno della compagine e distruggerla dall'interno, mettendo i difetti della sinistra, diciamo, all'interno della, beh, la mancanza di un leader e così. Diciamo che il presupposto che abbiamo cercato di tenere, ovviamente surreale, il fatto che l'Italia procede per ventenni, è sempre stato così, c'è stato il ventennio fascista, il ventennio berlusconiano, adesso siamo nel ventennio sovranista. L'unica cosa che possiamo fare, dato che non si può rispondere sempre al fuoco col fuoco, quindi non si può da un fascista dargli il fascista perché gli fai un complimento di base o comunque, è mimetizzarsi, cioè nel senso, mimetizziamoci, aspettiamo 20 anni, ma dopo questi 20 anni dai. Io infatti il mio preferito è il barista trasformista. Il barista trasformista, sì, che ogni volta che cambiano i governi, che quando parla con i suoi avventori trova da ragione, insomma, perché d'altronde deve continuare a avere il suo bar. Quindi il barista trasformista è il mio preferito. Facciamo la pausa per la viabilità perché siamo un po' in ritardo, e poi saremo ancora insieme con Luca Barra, col terzo segreto di satira, ma un sacco di persone in questo studio. Radio Tube Social Network. Allora, siamo ancora insieme con Luca Barra, con due quinti, io so per nemico i numeri del terzo segreto di satira. Ragazzi, avete commesso un gravissimo errore a pagina 47 del vostro La Paranza dei Buonisti. Mia, che ansia, ragazzi. 2017, bravo Francesco Gabbani, ha vinto, sì, Sanremo 2 anni di fila, il mio cantante preferito. 2020, che fine ha fatto quello della scimmia che balla? Gabbani vi ha fregato. quasi fregato, alla fine è andato con questo secondo posto, lo regherà nell'oblio della nostra memoria, per fortuna, per altri 10 anni. Possiamo, è brutto, tanto non abbiamo niente contro Gabbani, però eravamo alla finale, Francesco, sperando che perdesse. perché se no la pagina 47 dovevamo mangiarcela. Vi cascava tutto. ho troppo riso, perché ho pensato anch'io, se avesse vinto li avrebbe... Però vabbè, niente contrario a Gabbani, a quale vogliamo un gran bene. Parliamo un po' di Sanremo, ragazzi, voi l'avete guardato? Come si dice? Sanremo anche... Allora, ragazzi, però è a tutti quelli a cui faccio questa domanda, prima di dire sì, guarda gli occhi al cielo come per dire... No, ma perché Sanremo, a parte che è quelle cose che le guardi anche se non le guardi, cioè non puoi, non sai tutto a prescindere, quindi sì. E poi quest'anno... Beh, quest'anno è stato un paio di chicche, mica... Esatto, mica esatto, e quest'anno non ce la facevo più. A Luca non posso non chiedere, chiedi, se, esatto, perché eravamo a Sanremo insieme, quindi non posso chiederti. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di Bugo e Morgan fino alla fine, tra l'altro io ieri ho fatto una story... Perché mi hanno mandato il filtro di Morgan. Beh, ragazzi, io di una bruttezza totale, ma non potevo. Cioè, ho riso per mezz'ora. E poi tutti i miei amici si morganizzavano nelle storie di Instagram. Abbiamo veramente, veramente tanto tempo lì, tanto tempo da perdere. Allora, e poi, però, questa settimana stanno arrivando altre parodie, altre. un altro collettivo di quelli che insomma, hanno cominciato tanto con YouTube, poi sono diventati, insomma, si sono un po' scostati da YouTube perché hanno tanto da fare alla vita, sono i The Jekyll. Che ha fatto il video adesso. Hanno fatto il video con Diodato e io ho detto, vabbè, apoteosi. Io non so se tu l'hai già visto, The Jekyll e Diodato insieme. Sì, l'ho visto. Per tutti coloro che non l'avessero visto, eccoli qui, Diodato e The Jekyll. Certo che posso parlare, dimmi! No, che bello! Non ci credo! Suonare. Ho capito che hai fatto Sanremo, ma non è che l'hai vinto. No, veramente l'ho vinto. Ah, sì? Complimenti. Grazie. Bellissimo. Ho capito, ma stiamo lavorando. Io sto a telefono. Cioè, l'ha visto, non è che non l'ha fatta apposta. Che l'ha visto? Ha visto? Le brutte intenzioni, la maleducazione. La brutta figura di ieri sera, Che succede? Beh, fantastico questo che succede di Morgan. Non ne usciremo mai da questo, Bugo e Morgan, cioè. A proposito di realtà che supera la fantasia, sì, cioè, esatto, cioè, non si può oltre, più di così, cioè, è situazionismo puro. Poi c'è stato quel momento in diretta. Non si contano più i meme perché è più di qualsiasi altra cosa. Sì, meme, poi il discorso, il foglio che ha scritto quella sera all'asta su eBay che raggiunge 6.000 euro di offerta. Sì, infatti, bellissimo. Beh, straordinario, straordinario. Allora, poi è il momento di, tradizionalmente, altro collettivo che io amo molto, che sono i Casa Surace, e anche l'anno scorso, io la stavo aspettando, la nonna che cantava le canzoni di Sanremo. È arrivata, le ha fatte quasi tutte. La mia preferita è ovviamente Elettra Lamborghini. La sentiamo? Rosetta, Rosetta e Lambrettina. Io faccio servizi dal primo mattino, faccio casino, pulisco un po' il comodino, sbrinaglio il frigo, chiamo le friend per un aperitivo, mentre dormito io piglio la pensione, poi passo a terra, l'aspira poi, chiamo i parenti a Parigi e Dangon, tanto il rosario lo dico da qui. Alleluia! Vengo e vado per la casa, piano piano, guardo la puntata sul divano, batti i tappetti così, passa la pezza che pulizza il resto scompare, pulizza il resto scompare, pulizza e il resto scompare. Mi sa che domani mattina, la domenica mattina che pulisco per bene casa, canterò pulizia e resto scompare. Molto, molto, molto, molto carino. Vabbè, ragazzi, questi ragazzi che sanno fare i video ci salveranno il mondo. Allora, io devo però sottolineare ancora una volta il terzo segreto di satira, l'apparenza dei buonisti, perché c'è anche non solo il vademecum come diventare qualcuno sui social, e quindi io me lo devo proprio interiorizzare perché io ancora sogno di diventare qualcuno sui social, e poi un altro dei miei personaggi preferiti è il piccolo Mario Truce, l'anti Greta Thunberg, che sì, poi per amore, insomma, non possiamo spoilerare, ma sì, l'amore è l'unica cosa che lo può salvare a un certo punto dal sostenere le sue battaglie anticonvenzionali, tipo il ritorno alla benzina super. Sì. Sono battaglie importanti, Mario, sei abituato a battaglie importanti. Meraviglioso, meraviglioso. Io veramente sorriso con l'apparenza dei buonisti di Tito Longanesi, il terzo segreto di satira. Grazie a Davide Bonaccina e Pietro Belfiore per essere stato con noi, con noi. A quest'ora ormai sono rimbambite, ragazzi. Io, cioè, ormai non capisco più niente. Vabbè, però sono riuscita a salutarvi. Grazie anche a Luca Barra. Allora, la sitcom Genere, Evoluzione e Prospettive, libro con una copertina bellissima, il terzo segreto di satira, ha il lupo bianco tra i lupi neri, cioè non la pecora bianca, ma la pecora nera, ma il lupo bianco tra i lupi neri. La pecora bianca, la pecora con la maschera da lupo, e invece la sitcom ha tutti i divani di tutte le tutti sitcom. Tutti i divani delle sitcom. Tutti sì, i divani veri. Il mio è quello di Modern Family, quello che ho a casa. Se vedete la copertina scoprirete che divano ho io a casa. Io devo ringraziare due che per tutto il giorno hanno parlato solo in tarantino, non so se in omaggio a Diodato, ma hanno parlato solo in tarantino quei due, Roberta Frisani in regia, Alessandro Schirano in redazione, non ci potevano credere. Noi andavamo lì, non capivamo, cioè si dicevano cose, vabbè, dobbiamo studiare il tarantino. E Gigi Donelli, che sta per fare il GR delle 18, parlano solo in tarantino quei due. Va bene, va bene, va bene. A Anch'io. Allora adesso diamo la linea al giornale radio delle 18, appunto, con Gigi Donnelli, che sta per andare in onda con tutte gli aggiornamenti. Insomma, sappiamo quanto sono importanti in questi giorni. Allora, noi ci salutiamo qui. Grazie Luca, grazie a Due Quinti del Terzo Segreto, e noi ci ritroviamo il prossimo sabato. Non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente.